24. La storia. Perché l'educazione costituisca veramente la salvezza dell'umanità e della civiltà, non può mantenersi nei limiti e nella forma che oggi presenta. Maria Montessori, donna controcorrente, senza alcun dubbio. Stiamo parlando di una donna che a 30 anni era, quindi nel 1900, era celebre in America, senza internet, senza niente. Lei ha cominciato a ricevere inviti da tutte le parti del mondo perché andasse a affrontare. Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per 7 anni e in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. L'uomo non può essere considerato solo quando è un uomo, è prima che deve essere considerato. Chi vuole trovarsi davanti ad un uomo, bisogna che abbia cercato il bambino. L'uomo è il risultato del bambino. Quindi gli pensava in divenire, pensava agli adulti, pensava agli uomini, alle donne che sarebbero stati. Maria Montessori ci dice che il bambino ha capacità di capire, di comprendere il mondo, di ordinare il mondo, di percepire il mondo, che noi adulti totalmente ignoriamo. Cosa hanno in comune le menti geniali degli inventori della Silicon Valley, i giovani creatori di Google, di Amazon, di Wikipedia? Tutti hanno studiato con il metodo Montessori, un metodo che ti permette di analizzare le sfide da affrontare e ti dà il senso di libertà indispensabili per vincerle. Così Sergey Brin, uno degli inventori di Google, parla del metodo Montessori. Ma allievi indirettamente di Maria Montessori e del suo metodo sono stati anche Anna Frank, il premio Nobel García Márquez, George Clooney e Mario Draghi. Ma dietro uno strumento didattico, educativo, dietro un metodo applicato in tutto il mondo che ha contribuito a formare le classi dirigenti in ogni campo, c'è la storia appassionante di una donna. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di un'italiana che ha cambiato la pedagogia del XX secolo. Le classi di età mista, l'assoluta libertà del bambino di scegliere cosa fare. Gli strumenti di sviluppo, quasi giocattoli, che stimolano l'apprendimento della matematica, della scrittura, della musica e della vita pratica. Sono alcune delle novità del metodo Montessori. Il principio è semplice: l'autoeducazione. Ma per la stessa Montessori la scoperta più sconvolgente è vedere i bambini di 3 anni che imparano a leggere e a scrivere da soli. Ce ne parla la pedagogista Grazia Honegger Fresco. Faccio fare, ti faccio fare. No, i bambini fanno. Non tu gli fai fare. E sempre con un'attenzione da parte delle maestre sul come si fa una cosa fatta bene, no? Quindi movimenti lenti per far vedere, eccetera. Lei ha fabbricato i materiali in parte sulla base di quello che aveva scritto Itard, in parte sul lavoro di Seguin. Cioè, vuol dire che sono materiali avendo capito come funziona la mente del bambino. E rispettando poi le differenze tra i bambini, dobbiamo fare in modo che i bambini siano i protagonisti della loro crescita intellettuale, così come lo sono della propria crescita fisica. È molto bello il modo in cui Maria Montessori racconta scientificamente le sue ricerche. C'è un misto di linguaggio scientifico corretto, pulitissimo, e una narratività forte. Avete sentito Valeria Babini, storica della scienza. Maria Montessori dice: molti pensano che io sia una che, come vede un bambino, non fa altro che accarezzarlo e si commuove solo al vederlo. No, a volte io ne ho fastidio. Maria Montessori vede l'uomo in ogni bambino e si concentra sul processo di crescita. Ce ne parlano Lucetta Scaraffia e l'ex sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Era un rovesciamento copernicano rispetto a un'educazione che invece vedeva il bambino come un contenitore vuoto da riempire di materie. Il bambino non deve soltanto imparare ciò che la maestra gli dice, ma deve elaborare in sé un pensiero originale da confrontare con gli insegnanti. Quindi è un metodo rivoluzionario. Maria Montessori dice: il bambino è una mente assorbente. Ha capacità di capire, di comprendere il mondo e di ordinarlo che gli adulti ignorano. Così scrive lei stessa. Ciò che muove il bambino all'attività e un impulso interiore primitivo, quasi un vago senso di fame interna. Ed è la soddisfazione di questa fame che lo conduce a poco ad un complesso e ripetuto esercizio dell'intelligenza nel comparare, giudicare, decidere un atto, correggere un errore. Se penso a come ho imparato a scrivere e a leggere, io mi ricordo lo sforzo dell'apprendimento, che era uno sforzo anche solitario, l'induzione all'apprendimento. Nella cultura di quell'insegnamento c'era profondo il valore del riconoscimento dell'altro da sé, della solidarietà. Io mi ricordo che vivevo in una classe con dei bambini disagiati o con dei disturbi, e noi vivevamo assolutamente in una condizione di perfetta normalità. Avete sentito Bobo Craxi, allievo dei Montessori? Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una donna nuova, quasi il simbolo di un'Italia appena nata, Maria Montessori. La sua è un'esperienza avventurosa, piena di successi clamorosi e di dolorosi fallimenti, di contraddizioni e misteri, quasi che il personaggio volesse tenere nascosta la donna. La prima italiana a esercitare la professione di medico, la prima a comparire sulle banconote della zecca, la prima cui sia stato dedicato un cratere su Venere. Insomma, una prima donna in senso letterale. Il 1870 è l'anno della breccia di Porta Pia, della fine del potere temporale del Papa di Roma capitale. È anche l'anno in cui, il 31 agosto, a Chiaravalle, in provincia di Ancona, nasce Maria Montessori. La sua è una famiglia benestante. Il padre, Alessandro Montessori, è ispettore presso l'opificio di tabacco, una fabbrica dove lavorano molte donne che godono di una certa indipendenza e che dispongono persino di un asilo per i loro bambini. La madre, Rinilde Stoppani, è una donna molto colta e può vantare un importante e prestigioso parente, l'abate Stoppani. Ce ne parlano ancora Lucetta Scaraffia e Lucio Lombardi. L'abate Stoppani era suo zio, sicuramente veniva quindi da una famiglia intellettuale, ecco, questo sicuramente. Maria Montessori è, ci immaginiamo, più chiaravallese di quello che ci si possa immaginare. Chiaravalle ha una lunga tradizione, una lunga storia nella lavorazione del tabacco. La manifattura tabacchi era quindi l'elemento trainante dell'economia, ma anche della cultura di questi territori. Nel 1875, quando Maria ha 5 anni, Alessandro Montessori viene trasferito al Ministero delle Finanze e la famiglia trasloca a Roma. La piccola cresce in un ambiente ricco di stimoli, in cui lo spirito liberale convive con la fede religiosa. Maria del resto ama studiare e la famiglia l'appoggia. Ce ne parlano Valeria Babini e Lucetta Scaraffia. Decide, è un po' una leggenda, ma è anche vero, di non fare la maestra, decide di non fare l'insegnante, e questo è paradossale perché finirà per essere, diciamo, il faro di tutte le maestre, di tutte le insegnanti. E anche una delle prime a seguire prima un istituto tecnico, un'educazione che di solito non era considerata adatta a una donna. Dietro questa donna ci stava la grande ambizione di una madre. La madre Renilde era ambiziosissima per questa figlia, molto intelligente e bella. Suo padre aveva contatti con le reti mazziniane ed era sicuramente massone. Questo sicuramente ha aiutato molto di più dell'abate Stoppani a iscriversi a medicina, dove la massoneria era più potente dell'abate Stoppani. E lei nelle sue ultimi oggetti che si è portata ad Amsterdam, sa che è morta in Olanda, aveva il libro sull'Italia dell'abate Stoppani, cioè era uno dei libri suoi prediletti. Nel 1890 Maria Montessori si iscrive alla facoltà di fisica e matematica. 2 anni dopo, nel 1892, sceglie di passare a medicina. Ma sarà necessario l'intervento del ministro dell'istruzione Guido Baccelli, fino ad allora contrario all'ingresso delle donne in questa facoltà. Le donne non avevano accesso né alle scuole, ai licei, né all'università. Ed è il 75 che inizia l'accesso alle università, sebbene sia un'apertura contraddittoria. L'apertura verso le scuole secondarie arriva negli anni 80, l'apertura verso l'università prima. Quando lei si iscrive nel 90 all'università, medicina è una medicina impegnata sul sociale, è una medicina che deve far fronte al pauperismo ancora diffuso nell'Italia, quindi a malattie che sono malattie della miseria, detto come si diceva una volta.

precipitarono sotto questa tavola per raccogliere queste mollicche di pane e altre cose, ma mia madre vide con grande sorpresa che questi bambini non mangiavano e invece cominciavano a manipolare queste mollicche di pane. E allora ebbe come un'intuizione che c'era qualche altra cosa lì dentro, che c'era un desiderio da questi bambini di poter fare qualche cosa. Lei mi disse una volta una cosa che mi commosse molto, dice: io avevo visto una fiammella di intelligenza in questi bambini. Mentre tutti ammiravano i progressi dei miei idioti, io meditavo sulle ragioni che potevano trattenere gli allievi felici e sani delle scuole comunali ad un livello tanto basso da poter essere raggiunti nelle prove di intelligenza dai miei infelici allievi. Avete sentito le parole di Maria Montessori in Antropologia Pedagogica. La Montessori è una conferenziera eccellente e per questo il ministro Baccelli la nomina delegata italiana ai congressi femministi che si svolgono in tutte le capitali europee. Il primo prestigioso incarico è nel 1896 a Berlino. Dal palco Maria lancia un appello appassionato contro la disparità dei salari in fabbrica tra uomini e donne. Un successo. Ma subito dopo scrive una lettera ai suoi genitori. Vedo che molti giornali parlano di me e chissà quanti che non so ho le mie buone ragioni per crederlo. In bene e non in bene, ciò non importa, farò tutto dimenticare. La mia faccia non andrà più per giornali e nessuno oserà più cantare le mie supposte bellezze. Io lavorerò seriamente. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di una ragazza di 26 anni, affascinante e determinata, Maria Montessori. Lavora, studia, viaggia, mentre la stampa sempre più spesso le dedica attenzione. Poi nella sua vita entra Ferruccio Montesano, come lei medico e ricercatore, una promessa della psichiatria infantile. Sarà l'unico grande amore della Montessori. La bella medichessa, come viene chiamata sui giornali, nasconde a tutti la sua storia d'amore con il collega Ferruccio Montesano. Ma il suo vero segreto è un altro. Il 31 marzo 1898, infatti, Maria Montessori ha dato alla luce un bambino, Mario Montesano, che viene affidato ad una famiglia e tenuto segreto. Lucetta Scaraffia. Poi la rottura con Montesano, che è una rottura con un mondo, con una cultura, che è quella del positivismo italiano, è avvenuta, questo è molto femminile, per motivi d'amore, cioè per motivi squisitamente sentimentali, ma non tanto perché lei aveva avuto un figlio con Montesano, che è stato tenuto segreto come figlio illegittimo. Allora, diciamo, questa era una cosa che poteva essere abbastanza normale. Lei pensava però che il suo rapporto con Montesano sarebbe continuato. Il figlio nascosto era anche una liberazione per lei, che poteva dedicarsi alla scienza. La rottura è avvenuta quando lei ha saputo che Montesano si sposava con una donna scelta da sua madre. E quindi questo è stato il tradimento, diciamo così, che Montesano, invece di essere un uomo progressista, è tornato al passato. E la leggenda montessoriana dice che la Montessori è stata 3 giorni sdraiata per terra senza mangiare né bere, cioè con un dolore, diciamo esprimere tutto il suo dolore, poi si è alzata. Da quel momento si è sempre vestita di nero, non ci sono stati più uomini nella sua vita, questo è anche molto significativo, ed ha cambiato anche completamente la sua sfera di interesse scientifico. Per la giovane madre è una separazione lacerante, che ha come conseguenza immediata la fine della collaborazione professionale con Ferruccio Montesano. Ormai è impossibile. Maria Montessori lascia il suo incarico alla clinica psichiatrica e si dedica all'insegnamento universitario, che però abbandonerà presto scegliendo la ricerca pura. Nel 1907, grazie all'edilizia sociale per le famiglie operaie creata da Edoardo Talamo, Maria Montessori apre la prima casa dei bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Nell'occuparsi di 50 bambini tra i 2 e i 6 anni, riprende le esperienze fatte con i bambini disabili, gli unici di cui si sia occupata fino a questo momento. Il successo del suo lavoro stupisce tutti. È nato il metodo Montessori. Ce ne parlano Valeria Babini e Grazia Honegger Fresco. Da medico, psichiatra che si occupa dei bambini disabili, arriva a San Lorenzo e mette in piedi, diciamo, quell'esperimento insieme pedagogico e politico che è la casa dei bambini nel quartiere San Lorenzo di Roma, con l'appoggio del sindaco Nathan, di Alice Franchetti, quindi ha dietro anche delle forze importanti per rendere visibile e importante la sua esperienza, con poi il metodo e l'opera che su quell'esperienza verrà costruendo. Arriva questo ingegnere dei beni stabili, Edoardo Talamo, il quale aveva questi bambini che scorrazzavano in questo appartamento, questo complesso di case appena restaurate. Non c'erano esili all'epoca, non c'erano posti dove andavano i bambini piccoli. L'idea era partita da lui di fare una scuola, una piccola scuola dentro il palazzo degli adulti, che è un'idea bellissima. In principio aveva portato i bambini di San Lorenzo il materiale che aveva adoperato con i bambini oligofrenici, così si chiamavano, ma non funzionava per i piccoli, no, ci voleva altro, dovevano essere studiati in un altro modo. Rimette in moto quello stesso metodo, ecco che lì, lasciandoli liberi i bambini di muovere, scopre lei qualcosa, scopre la spontaneità e l'estrema potenzialità del bambino, che sarà il tema centrale della sua pedagogia. Il segreto sta nel preparare un ambiente che stimoli l'attività, un ambiente in cui il bambino è lasciato libero di scegliere il lavoro che meglio risponde ai suoi bisogni del momento. È un errore associare l'idea di disciplina al silenzio e all'immobilità. In questo ambiente tutti si muovono per compiere i loro esercizi, dal più piccolo di età al più grande, e senza disturbarsi. Così scrive Maria Montessori in Antropologia Pedagogica. L'amore come principio, l'ordine come fondamento, il progresso come fine. È il positivismo del filosofo Auguste Comte, che caratterizza la cultura borghese, progressista, liberista e riformista tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. La totale fiducia nel metodo scientifico è confermata sia dalle teorie evoluzionistiche di Darwin, sia dal miglioramento delle condizioni di vita ottenute grazie alle nuove tecnologie. La macchina a vapore, le ferrovie, l'elettricità, la scienza, insomma, è la chiave per risolvere qualunque problema. A parlarcene è Luciano Mazzetti, esperto in scienze della formazione. La verità è che lei era dentro un nucleo, una realtà culturale estremamente intensa, resa in Italia vivissima da che cosa? Da alcune frange del modernismo cattolico, di un cattolicesimo totalmente inviso, se si vuole, al Vaticano. Quindi c'era questo modernismo che era già rivolta dentro la Chiesa cattolica. A fianco c'erano tutti i movimenti ebrei a cui lei era particolarmente vicina e tutti i movimenti della massoneria che in una qualche maniera funzionavano come corollari. La sua esperienza nasce lì, non a caso lei dopo San Lorenzo va all'Umanitaria di Milano. E l'Umanitaria era quella dei fratelli Bauer, era l'Umanitaria dei Treves, dei Turati, di un socialismo milanese e lombardo che ha finito poi col fare larga parte della storia del nord d'Italia. Maria non aveva lavoro, non aveva lavori, viveva delle conferenze che faceva, dei contributi che sostanzialmente stava a quel punto elargendo in tutto il mondo. E io credo che questa dimensione per lei, a cui lei è sempre stata attenta in maniera molto... l'abbia fatta vivere sempre in maniera molto cauta l'esperienza del figlio anche. Nel 1913 decide che è venuto il momento di riprendere con sé il figlio Mario, che ormai ha 15 anni, ma tutti continuerà a presentarlo come suo nipote. Ce ne parla Luciano Mazzetti, professore di scienze della formazione, e Valeria Babini, storica della scienza. Qualcuno dice che lei non l'abbia detto e che abbia aspettato di farsi carico del figlio dopo la morte della madre di Renille. Altri sostengono invece che lei non l'abbia detto per non far soffrire la madre. Ma al di là di questo, ecco, quello che lei in fondo vive è questa grossa solitudine. Il fatto che il figlio è stato regolarmente riconosciuto dal padre, il figlio è stato educato in un'azienda qui a Ricovaro, a pochi passi da Roma dai contadini del padre. Nello stesso tempo però non lo tiene nascosto, lo sublima, cioè tutto il tema della maternità sociale, che è il centro della pedagogia montessoriana, tutto il tema delle donne che potranno scegliere il loro compagno e anzi dovranno sceglierlo loro, un compagno degno dell'umanità futura, è un tema che riscatta, no, per le altre di domani quello che lei ha dovuto nascondere. In questi anni Maria Montessori lavora per diffondere il suo metodo. Ha intuito che il principio si può applicare non solo ai bambini ma anche ai ragazzi di età più avanzata. Le richieste arrivano da tutto il mondo. La scienziata viaggia dappertutto per formare nuovi insegnanti, sempre accompagnata da suo nipote Mario. Lei ha cominciato a ricevere inviti da tutte le parti del mondo perché andasse a raccontare. Perché la cosa che ha colpito di più è stato il fatto di questi bambini piccoli che cominciavano a leggere e scrivere da soli. Cioè, a macchia d'olio si è diffusa in tutto il mondo questa cosa. E allora sono cominciate subito le imitazioni. Lei ha detto no, no, questo va fatto così, perché io l'ho studiato così. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Oggi raccontiamo la vita di Maria Montessori. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si trasferisce in Spagna per seguire l'avvio delle scuole aperte dalle sue allieve predilette. Ad accompagnarla il figlio Mario, che in Spagna si creerà una famiglia. In Italia intanto i contrasti con i colleghi, così come il suo rigore, bloccano la diffusione delle sue idee. Così, mentre i suoi libri vengono tradotti in decine di lingue, nel suo paese d'origine la nuova pedagogia della Montessori rischia di diventare un'opera incompiuta, ma lei, tenace e indomabile, non si rassegna. Tra la fine della guerra e i primi anni 20, in molti paesi come la Germania, la Scozia, l'Argentina, gli Stati Uniti, fioriscono associazioni per la tutela del metodo, che già viene imitato e snaturato. In Italia, invece, un disinteresse totale. Nel 1923 Mario Montesano scrive una lettera a Mussolini. Gli chiede come mai proprio in Italia il metodo sia meno diffuso. La risposta non si fa attendere. Il duce si fa paladino dell'italianissimo metodo, come spiega il professore Luciano Mazzetti. Tra l'altro c'era il problema di queste tre M che venne fuori, la M di Marconi, la M di Montessori e la M finale e firmataria, la M di Mussolini, ecco. Non va dimenticato che Mussolini era un maestro. A sorpresa, Maria Montessori si trova così a collaborare con Mussolini. In realtà ognuno pensa di sfruttare il potere dell'altro, e del resto tra i promotori del metodo Montessori c'è proprio Giovanni Gentile, ministro della pubblica istruzione. Ce ne parla Luisa Lama. Quando avviene questo loro primo incontro nel 1924, Mussolini aveva un consenso ampio, anche buona parte sia del mondo cattolico che del mondo liberale. Nel 24 Gentile, presidente dell'ente morale, opera Montessori, e anche la sua riforma scolastica ingloba il metodo. Per il metodo Montessori, finalmente, l'affermazione sembra arrivare anche in Italia. Eppure in quell'anno accadono anche cose terribili. Ce ne parla Grazia Honegger Fresco e Luciano Mazzetti. Io questa cosa non gliela perdono tanto, di aver detto la mia idea è così forte che può prevalere sul fascismo, questa illusione. Mi sembra una contraddizione con questa sua intelligenza così aperta e così viva, no? Lei non guardava tutto il contorno, no? Si era pure dimenticata di Matteotti, ignorava tutte queste cose. Lui volle essere presidente onorario dell'opera, cioè una cosa era il neoidealismo italiano al governo della scuola, cioè una corrente di pensiero che prevedeva un teorico della libertà come Croce accanto a Gentile, ma che prevedeva Salvatorelli, Salvemi, lo stesso Gramsci, Gobetti, cioè questo idealismo che aveva nella libertà un culto preciso. Nel 1926 Maria Montessori, che pure si dichiara estranea alla politica, riceve la tessera fascista come membro onorario. Tre anni dopo nasce la Regia Scuola di Metodo per Insegnanti. La cultura fascista diventa materia fondamentale. La fascistizzazione della scuola procede inesorabilmente e l'autarchia promossa dal Duce sembra ricalcata proprio su uno degli insegnamenti della Montessori.